mettiamo in evidenza alcuni passaggi che ci vengono appunto dal Vangelo ascoltato, ognuno per quello che è può prendere e portare nella propria coscienza, nella propria vita, quanto sente più vicino a se stesso. Prova a dire queste cose entrando nel Vangelo. C'è un episodio che chiameremmo familiare, che però nella sua apparente semplicità è di una polemica dirompente. E non può sfuggire neanche al nostro tempo. Infatti Gesù rifiuta i rapporti sociali, giuridici, religiosi che facevano della donna poco più di una schiava dell'uomo, affermando chi ha il diritto di sedere fra i suoi discepoli. Chi ha diritto? Inoltre, mette fine a leggi e usanze tramandate così, con il libero ascolto della sua parola. Non fa la predica, compie i gesti, poi dirà anche la parola. Non accetta che la donna sia mantenuta nella condizione di inferiorità. È un caso singolare, eh? La scena di Marta e Maria che ricevono Gesù in casa, e non c'è fatto cenno che ci fosse presente un uomo, un maschio. Sembra una sottigliezza, ma erano rotture di mentalità. La domanda per la donna, che era inferiore anche a livello religioso, se pensate che era esclusa dall'entrare nel Tempio, si fermava nell'atrio del Tempio, era esclusa dalla lettura della Torah, della legge, anche durante il culto, figurarsi, non poteva entrare nel Tempio. Non era neppure tenuta a osservare tutta la legge, tanto era tenuta inferiore. Era esclusa dalla scuola dei rabbini, dei farisei. Un ebreo non doveva neanche parlare, guardare una donna. Noi la conosciamo, quella preghierina piccola piccola ma tremenda: Signore, ti ringrazio, è il Pio israelita, eh? Signore, ti ringrazio che non mi hai creato donna. È una bestemmia. Entrando nel Vangelo ancora di più, Marta, che si occupa per preparare così un'accoglienza al Signore, e diventa un atto di grande ospitalità. È che pensa a Gesù come a uno di casa. Lo considera secondo le regole dell'ospitalità. Ma forse le sfugge il diverso, l'aspetto diverso, il mistero che era presentato da Gesù. La vera accoglienza che Gesù attendeva era quella dell'ascolto semplice, umile, tenero del suo messaggio. Maria lo riconosce come altro, come il maestro, come il mistero di Dio che ha varcato la soglia dalla sua casa. Quindi l'ospitalità non è quella faccendiera, è soprattutto il rispetto per ciò che l'ospite introduce dentro nel cerchio delle nostre abitudini. E quando dico abitudini, dico cultura, dico religione, dico linguaggio, dico passioni, abitudini. E poi c'è quel richiamo lì: Marta, Marta, tu ti affanni per troppe cose. Andiamoci adagio. Gesù non contraddice il servizio, ma l'affanno, come se il fine fosse quello, facciamo, non il desiderio, ma la dispersione dei desideri, una sola cosa di cui c'è bisogno. È intrigante questa affermazione, perché non dice quale sia questo bisogno, o almeno non lo formula, non lo dice a alta voce. Forse però lo si può cogliere interpretando i suoi comportamenti, i comportamenti di Gesù. Sedersi ai piedi di Cristo ci fa ricercatori dell'essenziale, ci fa vigili tra superfluo e necessario, tra effimero e ciò che conta, l'eterno. Allora a me viene la curiosità e provo a rispondermi, sempre facendo attenzione ai comportamenti di Gesù. Qual è la cosa necessaria allora? Non vivere senza mistero. E qui andremo dentro. Voi pensate che nell'ultima lettera, cosiddetta enciclica, bisogna arrivare verso la fine per scoprire questa parola mistero. Si dicono tante cose, ma la parola mistero entra più tardi nel discorso. Non so quale dei due papi l'ha detta, ma non vivere senza mistero, non vivere senza relazione di tenerezza, di compassione, di cura, quindi di amore. Non c'è infinito sulla terra al di fuori delle relazioni autentiche, che sono quelle che rimangono, perché sono dettate dall'amore, se no le altre diventano effimere, con tutta la fatica che è necessaria per arrivare a una relazione vera. Non c'è assoluto lontano dall'amore. L'assoluto vero è l'amore, con tutte le fatiche, ripeto, che... Un'ultima considerazione. Marta e Maria non si contrappongono. È stata il nostro catechismo, le nostre prediche, le nostre buone letture e la vita dei santi, con rispetto parlando, no? Che le hanno messe di qua e di qua quella che si dava a fare. È vero che la fede senza le opere è vuota, Però gli atteggiamenti di Marta e Maria sono complementari, infatti. Marta non può fare a meno di Maria, perché il servizio ha una sorgente, l'unica che fa grande il cuore. Maria non può fare a meno di Marta, perché non c'è amore di Dio che non debba tradursi in gesti concreti. Nell'ultima lettera, appunto, della ciclica risuona un po' questa luce della fede, che deve fare i conti con la ragione, con la modernità, con i problemi che la cosiddetta postmodernità sta ponendo. Se pensate a tutti i problemi della fame, ai problemi etici, ai problemi che continuiamo a dire, i problemi, agli aspetti che continuiamo a dire secondo natura, ma che roba è la natura? È così un dato di fatto, punto e basta? O è un'evoluzione anche il concetto di natura, il concetto di valore, il concetto di dignità? Allora, ama il Signore, ama il prossimo. Sono una identica beatitudine. Beati quelli che ascoltano la parola, Maria, beati quelli che la mettono in pratica. Insieme Gesù si fa capire. Andate avanti voi adesso. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.